È evidente che quando un governo arriva a incidenti così incredibili come quelli della conferenza stampa e quando atti giudiziari e le stesse dichiarazioni dei componenti del governo ai magistrati testimoniano un quadro nel quale vertici apicali del governo attribuiscono a lotte all'interno di corpi dello Stato conseguenze che poi si riverberano sulla stessa permanenza in carica dei componenti del governo, vuol dire che il quadro è quello degli ultimi giorni, è un quadro minato dall'interno, è un quadro che difficilmente può essere identificato agli occhi del cittadino, dei lavoratori, dei contribuenti, come il quadro dal quale ci si può attendere una manovra che arriva all'azzeramento del deficit. Io lo dico con profondo dolore perché penso che questo sia l'atteggiamento che devono avere tutti coloro che amano il nostro paese e che si rendono conto del fatto che l'azzeramento del deficit è un impegno senza alternative nel quadro internazionale della finanza pubblica, dell'eurocrisi in cui stiamo, per il rischio molto oggettivo. Avete visto che in 2 giorni Spagna e Portogallo hanno iniziato di nuovo a ballare anche loro, che la lista dei paesi che possano essere coinvolti nella diluizione della soluzione europea del problema greco e degli altri eurodeboli ci veda di nuovo rimessi ben al centro nella lista dei paesi che generano sfiducia. E in tutto questo la politica dovrebbe dare un'immagine di assoluta fermezza nella condivisione di questo obiettivo e di assoluta chiarezza e serietà nell'identificazione delle strade per raggiungerlo. Invece è chiaro che quando già si è molto divisi, come si è divisi tra maggioranza e opposizione, e quando si è ancora più divisi all'interno della maggioranza, e quando si è ancora più divisi all'interno del governo, un obiettivo di questa importanza diventa un obiettivo di cui all'opinione pubblica, a quale non si può chiedere di essere così attenta a ogni minima valutazione delle vicende interne di un governo, gli resta l'impressione che non sia un obiettivo così importante.